Nel caso fossimo già in diretta, siamo in piazza Santissima Annunziata in attesa della testa del corteo 27S, sciopero mondiale per il clima. Fridays for Future, cominciano ad arrivare le prime persone da lontano, ma riconosceremo il carretto guidato da chi incita i cori, e quello sì che sarà la vera testa del corteo. Per ora ci sono gli anticipatori, le anticipatrici, attimi trepidanti per questa data storica. Di regia mobile dal corteo, si attende l'ok dai tecnici che ci confermeranno se siamo in diretta. Ricordiamo che è il primo tentativo di regia mobile con carriola, abbiamo una carriola di morto agevole bombatissima fatta di batterie da macchina, inverter da 2000 watt, una scheda audio, un computer, una saponetta, internet, e ci dicono che siamo in diretta con probabilmente un ritardo di qualche secondo. Ragazzi e ragazze, è un momento importantissimo, un momento emozionantissimo. Parto subito con un ringraziamento a questo mondo, a questa vita, per un momento così importante. Un super ringraziamento a tutti i tecnici bombatissimi. Dai, devi dire subito qualcosa. Ce l'abbiamo fatta, è stata dura, ma ci siamo riusciti, siamo in Santissima Annunziata. Il corteo deve ancora arrivare, ma c'è già un sacco di gente. E niente, ripasso la parola in realtà agli speaker, in quanto io non è che abbia molto altro da dire. Allora sì, come quindi avrete intuito, stiamo attendendo la testa del corteo. Ovviamente l'emozione spezza la voce. Siete su Wombat Radio, se ci state ascoltando AM molto bene, ma anche se ci state ascoltando via internet ancora meglio. Cos'è successo? Stamattina verso le 9 non siamo neanche riusciti a entrare con la carriola bombata in piazza Santa Maria Novella, dove si stava assemblando tutta la gente, il movimento di Fridays for Future, di tutti i comitati di difesa territoriale e di tutti gli studenti della città, e abbiamo tentato di far partire la diretta radio, ma c'erano piccoli problemi tecnici. Allora abbiamo raccolto interviste per il corteo. Abbiamo notato che è abbastanza comodo girare in un corteo con la carriola, ma bisogna fare alcune modifiche, tipo mettere le punte chiodate in modo da stroncare le gambe di quelli che si inframmezzeranno di fronte a noi. E poi adesso siamo arrivati in Santissima Annunziata ed è stato risolto il problema. Briccovaldo con il suo computer e Coso con le sue competenze tecniche. Chi vi parla è Camicia. Salutiamo ovviamente anche il gringo che era con noi fino a poco fa, ma non può ahimè partecipare in questo momento perché è già dovuto andare via, ma lo salutiamo comunque. Ciao gringo. Allora subito ne approfitto, visto che accanto a noi abbiamo delle voci autorevolissime di questa manifestazione, per chiedere un pochino ma perché, per come e soprattutto dove andrete a mangiare a pranzo. Beh, Lampredottino a Sant'Ambrogio. Perché è famoso il Lampredotto per essere all'interno della Toscana uno dei prodotti più sostenibili. Osciccio! Infatti Osciccio viene proprio dal Lampredotto. Subito delle perle. E invece qui Ornel, anche lui contentissimo di questa manifestazione, anche se ancora immagino che non l'avete visto la portata di essa, perché... Sì, noi siamo stati dentro la manifestazione, ma... All'ultimo abbiamo deviato per proprio vedere, diciamo, per aspettare qui in Santissima Annunziata la testa del corteo, tutte le bande e la marea di persone. È stato bellissimo fare questa camminata tutti insieme. Ci sono una quantità di giovani incredibile che io non ho mai visto prima. Bambini, tutti con i cartelloni. E... eletti qualcuno che ti ricordi? Ma sì, mi ricordo di una bambina con un grande, grandissimo cartello che diceva non importa quanto sei piccolo per fare un cambiamento. È vero, perché ho visto anche bambini proprio veramente piccoli accompagnati con i genitori, anche loro con i cartelli. Sì, sì. Noi ormai siamo un po' vecchi per manifestare, secondo te, oppure abbiamo ancora voce in capitolo? No, tutti sono benvenuti. Ho visto un anziano di ultra ottantenne farsi arrestare in un ponte a Londra, quindi è il mio nuovo obiettivo di quando sarò vecchio, farmi arrestare su un ponte a 80 anni. Tra i milioni di modi che ci sono per essere sostenibili, per fare agroecologia, per evitare di acquistare prodotti agroindustriali dalle grandi industrie, dalle filiere lunghissime, uno di questi modi è proprio anche rivalorizzare le antiche ulivete che un tempo erano abbandonate. Abbiamo qui un'esimia voce che da anni sta rivalorizzando un'oliveta, e questo è un bel modo, cioè farsi l'olio da sé, forse un po' dispendioso, ma la mia unica attività nella mia oliveta è quella di disboscare. Io passo il tempo a levare rovi e con poi la soddisfazione di non vedere neanche un'oliva quest'anno, quindi... ma secondo te le energie spese per riforestare sono maggiori di quelle che ci sarebbero, cioè che verranno poi risparmiate dall'autoproduzione delle olive così a pelle, oppure la foresta va troppo più veloce dell'energia umana? Beh, la foresta in certe determinate condizioni ha una capacità rigenerativa incredibile, però a livello di energie, se uno la vede come invece di andare in palestra vado in campagna a stare sotto il sole a fare le cose carine, perché no? Esatto, ci sono tantissimi esempi, se proprio volete applicarvi in queste cose basta che facciate per esempio anche a Mondeggi e non vi mancheranno le attività per imparare a fare i contadini, per imparare a produrre dal vino al pane, all'olio, alla birra eccetera, oppure se, ovviamente se avete il terreno vostro la cosa migliore è cominciare a utilizzarlo, perché da lì poi si riesce a staccare da tutti quelli che sono i grossi loop delle produzioni globali. E anche Sara ci vuole dire qualcosa, perché la vedo proprio qui che mi sta stalkerando. No, io vi sostengo con l'olio buonissimo che producete, e quindi vi sostengo come degustatrice di olio, mangiatrice di prodotti, questa è la mia parte, dai. È che una delle grandi, sono tutti grandi acquistatrici dei prodotti del venerdì in Piazza Tasso al mercato contadino, uno degli esempi di come si fa a eliminare totalmente la filiera, cioè la filiera lunga, arrivare a una filiera corta, rapporto diretto con i contadini e le contadine, acquisto di prodotti buonissimi dove non c'è schiavitù, dove non c'è distruzione, dove non c'è devastazione, dove non ci sono agrichimici. Quindi venite in Piazza Tasso il venerdì o all'Isolotto il martedì, questo è il momento spot. Ma soprattutto socialità. E convivialità. Perché non è soltanto un comprare, ma è anche un creare una situazione bellissima di rapporti umani. Molto vero, molto vero. Per chi si fosse collegato solo adesso, è un momento storico per tante ragioni diverse. Una di esse è che è una delle più grosse manifestazioni a livello globale, il 27S di Fridays for Future, lo sciopero globale per il clima. E poi siamo riusciti a far funzionare la regia mobile. Speriamo che siate in tanti ad ascoltarci. Grazie ovviamente a tutti coloro che lo hanno permesso. Arriva, attenzione, perché abbiamo degli ospiti internazionali, finalmente. Attenzione, molto piacere, ci siamo conosciuti solo su Skype, stiamo parlando con lui, we are talking with... Yeah, this is Dixon from Kisi, Kenya. Dixon from Kenya. Dixon, do you understand the importance of this moment here? I understand very much. What about Kenya? There is the necessity of a movement, a green movement, against the pollution, against the wasting, against the agribusiness. Exactly. The way you are doing here is the way we are doing in Kenya, for sure. Explain us what you are doing, lui sta dicendo, per traduco, che il modo che noi lo facciamo qui di manifestare e di proporre delle soluzioni è lo stesso che stanno facendo ovviamente anche in Kenya, e lui con la sua organizzazione sta ovviamente, cioè cosa sta facendo? What are you doing in Kenya? So I'm running an NGO called Wide Rescue Initiative Organization in Kenya. I'm in partnership with Tridom, an Italian company, where we grow trees with farmers on carbon credit to fight climate change and global warming. So I'm here to be part of this movement for sure. Molto bello, molto bello. Ci dice che stanno piantando alberi in Kenya per combattere ovviamente contro la sovrapproduzione di CO2. Qual è il miglior modo se non piantare alberi? Non ne conosco altri. Ci stanno facendo il video, quindi siamo addirittura in diretta radio e in streaming globale. Quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici da casa. È il 27S, siamo in Piazza Santissima Annunziata, tarda il corteo ad arrivare, vedo lontano intanto già i furgoni, i furgoncini della polizia che arrivano, a breve ci sarà un casino pazzesco perché non riusciremo a, probabilmente a parlare perché ci saranno cori e tutto il resto, quindi ascolteremo soltanto i cori. Intanto io saluto tutti, tra un po' non avrò più nient'altro da dire, quindi mi dovrò affrettare a fare altre interviste. È un movimento questo che rispetto alle prime volte, alla prima volta che ha manifestato, e devo continuare a parlare all'infinito, mi prendono in giro qua intorno ovviamente, rispetto alle prime volte dicevo che ha manifestato, principalmente la più grossa è stata quella in Piazza Santa Croce, ancora non c'era un vero e proprio schieramento politico, era stato molto appoggiato dai mass media, ma ancora ovviamente non si capiva poi che implicazioni politiche avrebbe potuto avere questo movimento. Invece poi nei mesi a seguire, rispetto appunto alla data di marzo, del 23M di quest'anno, hanno cominciato ovviamente a parlare seriamente, ancora più seriamente, non solo a definire il problema e a denunciarlo, ma anche a far capire quali sono poi le varie declinazioni di questo problema, prima fra tutti le grandi opere e le opere di devastazione ambientale, e infatti sono presenti tutti i movimenti di difesa del territorio, dai movimenti NOTAV a quelli dai comitati in difesa della piana per il parco e contro l'aeroporto, insomma, e tanti altri, proprio perché si è capito ed è stato dichiarato ed evidenziato che stiamo lottando tutti per la stessa cosa, cioè per un cambiamento di modello, per un cambiamento di paradigma, che mi piace tanto questa parola, e quindi basta progresso infinito, basta cementificazione, è il momento di fermarsi un attimo a ragionare e a iniziare a proporre modelli alternativi, e non sono solo chiacchiere queste, ma ci abbiamo intorno tanti esempi di modelli alternativi di riappropriazione delle terre, di rivalorizzazione dell'agroecologia, di mercati contadini, di proposte di parchi al posto di zone urbane, di rioccupazione di antiche fabbriche o comunque di locali abbandonati, eccetera, e via dicendo, e via discorrendo. Me ne approfitto, visto che non posso parlare sempre solo io, prima che se ne vada. Non vuole essere intervistata. Allora, io continuerei un attimo con un paio di interviste dalle scalinate di Santissima Annunziata. Ora proverò a portare. Possiamo provare a avvicinare la carriola a quel gruppo di ragazzi, perché questa è una manifestazione dei ragazzi e delle ragazze. Principalmente delle medie e dei licei, hanno addirittura la giustificazione. Giustificata dal ministro dell'istruzione. Allora le vogliamo approfittare. Ciao ragazzi, buongiorno. Siamo di Radio Wombat in diretta. Incredibile, ma è vero. È la prima volta che riusciamo a essere in diretta qua. Avete dei cartelli in mano? Visto che via radio non riusciamo a leggerli, potreste leggerveli e dirci un po' perché, se l'avete fatti voi. Allora, io ho scritto We Strike Back. We strike back, ok, che vuol dire? Che è una specie di gioco di parole tra strike, che è scioperare e colpire allo stesso tempo. Ah, moltissimo bene, moltissimo bene. E te invece che cartello hai? Ti chiedo un attimo di avvicinarti un po', perché sennò non arriva. Ah, sì, aspetta, aspetta che tolgo la cuffia che è un po' corta, vai. Invece questo cartellone c'è scritto: se io brucio, voi bruciate con me, con la terra che va in fiamme. È bellissimo, tra l'altro, un cartellone arancione con una terra blu, che è la terra dell'acqua, il pianeta dell'acqua, come sappiamo, che sta andando in fiamme. Il messaggio, immagino, quindi, che sia che siamo tutti sulla stessa barca, quindi che uno manifesti o no, però se qui poi avremo... Alla fine subiremo tutti le stesse conseguenze. E una domanda proprio a freddo, anzi a caldo, discutete di queste cose a scuola? Ci sono spazi di discussione sugli aspetti dell'ecologia politica, dell'agroecologia, oppure è ancora un ambito che viene affrontato all'esterno? Allora, diciamo che noi siamo alla seconda settimana del liceo classico e ancora non abbiamo iniziato a parlare di queste cose, ci stiamo un po' ambientando piano piano, però comunque credo che piano piano affronteremo anche questi tipi di argomenti. Bene, bene, complimenti, bravissimi. Voi volete dire qualcosa su questa giornata? Se ve l'aspettavate così? È la prima volta che ci vengo a questa manifestazione, è stato molto divertente e molto bello perché ci credo, cioè ci crediamo in questa cosa dell'ambiente e bisogna trovare delle soluzioni subito. Perché voi avete delle soluzioni in mente o delle cose che già praticate e mettete in pratica nelle vostre vite? Vabbè, i piccoli gesti quotidiani, ad esempio prendere le borracce invece di usare le bottiglie di plastica, oppure usare meno acqua, farsi la doccia, fare la raccolta differenziata, prendere più mezzi pubblici se proprio non si riesce a prendere bici o cose varie. Oh. Molto bello, molto bello. E te invece che cosa ci vuoi dire di questa... Te sei sempre di quale scuola? Io sono del Michelangelo e vabbè, anche per me è la prima volta che venivo qui, ma è un bel ambiente perché ti senti un po' capita, vedi altra gente che manifesta, allora un po' ti dà speranza vedere che forse non è tutto perduto, anche se è un po' brutto pensare così. Cosa vorreste dire ai professori riguardo a ciò? Vorreste degli spazi di dibattito maggiori per parlare di queste cose, per affrontare il problema anche istituzionalmente? Eh beh, certo, ovviamente si dovrebbe parlare molto di questa cosa anche a scuola, che certo con alcuni professori se ne parla, però sempre a seguire il programma a volte non si ha tempo, invece è una cosa importante, si deve parlare anche con degli adulti, anche se forse a loro il problema riguarda di meno, ma non così tanto. Grazie, grazie mille, adesso è arrivato il Bricco Valdo, diamo subito un po' la parola perché io sono 10 minuti che sto parlando come un matto, è un momento fenomenale. Ciao, ciao a tutti e tutte. Bentornati sulle frequenze del Wombat, 13.59 AM, lo ricordiamo. Siamo in Piazza Santissima Annunziata, sono le 13 circa, il corteo è giunto ora nella piazza. Sì, il camion è appena entrato, tutto il corteo, la prima parte del corteo, perché è veramente, veramente enorme, si sta accomodando adesso in Piazza Santissima Annunziata. Un sacco di persone, un sacco di giovani, un sacco di bombati presenti, anche volti noti, e cantano. Non so se riuscite a sentirli. Caro. Guarda, un momento, io sono veramente emozionatissimo, stanno entrando in piazza, comincia una testa di un corteo lunghissimo, perché l'abbiamo seguito da Piazza Santa Maria Novella circa 3 ore fa, e abbiamo visto che era un lungo serpentone senza fine, e speriamo che non abbia mai fine tutto ciò, che continuiamo a manifestare fino a che questo che viene preannunciato come un grosso cambiamento diventi tra breve tempo la normalità, perché altrimenti non ci sarà un breve tempo. Ci credi a questo grande cambiamento? Allora, io credo nei cambiamenti, in una somma di piccoli cambiamenti che poi fanno un grande cambiamento, però sicuramente anche la spinta individuale nel prendersi delle responsabilità a volte arriva quando una massa si convince di qualcosa, no? Per tante altre cose, ricordiamo per esempio la Critical Mass, anche lì partiti da 10, 20, 30 persone che giravano proprio qua in Santissima Annunziata intorno al cavallo, ma poi in realtà questo ha fatto sì che maggior numero di gente si rendesse conto dell'importanza di una manifestazione del genere e anche sensibilizzasse e divulgasse all'esterno un cambiamento di stile. Speriamo che questo, al di là dell'impatto mediatico, abbia poi un impatto sulle coscienze del singolo e della massa. È questione di fede poi alla fine, come sempre. È questione di fede, voi ne avete di fede. No, io sì, anch'io effettivamente devo dire che, lo so, è un tema molto delicato, molto complesso, e non è sufficiente personalizzare, a mio parere, anzi, quasi a volte controproducente far sì che i problemi del mondo siano personalizzati in una persona, quindi quella persona deve stare attenta a vivere in modo ecologico, non è proprio, cioè è anche così, ecco, però tutta questa coscienza deve portare a far sì che sia il sistema che cambia. Il corteo poco fa gridava anticapitalista, e forse è proprio questo il nodo della questione, in un modello, quello capitalista e specialmente quello neoliberista che si sta affermando negli ultimi anni, tutti i problemi vengono ributtati sulle singole persone, quando in verità, e si pretende anche un cambiamento da queste singole persone, quando poi in verità il cambiamento deve essere più globale, l'azione dei singoli è importante, ma deve mirare a sovvertire, a ribaltare, a cambiare il sistema che è in uso adesso e negli ultimi 2 secoli. Ci sono gli interventi. Non so se riusciremo ad avvicinarci. a farvi sentire qualcosa. Che facciamo? Ci avviciniamo? Ma io direi che ci possiamo anche avvicinare, anche se guardando la gente che sta arrivando qui a breve sarà invaso, quindi tenerci uno spazietto buono per poi uscire con la carriola non sarebbe male. Però si può sempre anche fare un giretto così e raccogliere qualche intervista, perché no? Manca una bandiera su questa carriola. No, ci manca un ombrellino, perché se piove siamo nella merda. Ci mancherebbe l'ombrellino, però piano piano la carriola bombata di morto agevole avrà tutti i suoi gadget necessari, dovremo sistemare un po' i fili, eccetera. 27S, sciopero globale per il clima, Wombat Radio, sono le 1 in dimostrazione che siamo in diretta, fammi vedere, le 13.07, secondo più, secondo meno, arriva la gente, stanno già parlando, proveremo un attimo a avvicinarci per ascoltare un po' quello che dicono, ci si prova a fare... Vai, si prova, dai. Vai, allora te che fai? Che la porti te? Vuoi provare l'emozione di portare la lebrezza? Allora attenzione che ci mettiamo in moto, pronti via. Zaino è mio. Poi ci dovremo sistemare con... Io ce l'avrei anche il collegamento per mandare anche la musica, però comincia a essere tanto. Stiamo mettendo troppa carne al fuoco, allora ci abbiamo verso il centro della piazza. Chiediamo scusa se la qualità dell'audio non sarà più così elevato come pochi minuti fa, ma giustamente ci sarà, immagino, anche molta interferenza per quanto riguarda la rete di connessione internet. Passiamo un po' defilati e vediamo. Tanto stanno parlando, non credo che riusciate a sentire, ma intanto proviamo a raccogliere un paio di interviste a questo ragazzo qua, per esempio. Ciao ragazzi, scusate, Wombat Radio, stiamo credendo un po' di dire un po' due cose su come ti senti te in questa manifestazione. Sinceramente? No, sono molto contenta soprattutto di vedere bambini e bambine con i genitori e con i docenti. Cioè, noto proprio il coinvolgimento e ne sono quasi emozionata. Perché comunque ho 20 anni, cioè sono giovanissima, però vedere che persone ancora più piccole sono così coinvolte emotivamente mi fa un sacco piacere. È una domanda che stiamo facendo stamattina, salutiamo a casa, che stiamo facendo stamattina a tante persone. A cosa rinunceresti, Teo? Cosa hai già rinunciato in questo cammino verso un cambiamento di modello? Dalle cose più semplici, come per esempio le bottigliette d'acqua, anziché lasciare 50 centesimi ogni mattina in università, cammino con la borraccia, raccolta differenziata il più attento possibile, già a casa in università con le coinquiline. Inoltre sono rappresentante degli studenti all'Istituto Europeo di Design e abbiamo già avanzato delle proposte per potenziare la differenziata e raccogliere le cicche di sigaretta. E cercare di far sensibilizzazione in ogni luogo, quindi già dalla stessa università, visto che essendo rappresentante ne ho la responsabilità. E ma come risponde l'istituzione universitaria? Sembrano recepire il messaggio o no ancora? Al momento sì, abbastanza bene. Già l'OIED da un paio d'anni, se non tre, fa dei progetti con tutte le facoltà legate alla sostenibilità. Per esempio a Pitti di 2 anni fa ormai abbiamo partecipato con il progetto EcoEgo, oppure a Pitti di giugno adesso c'è stato il progetto The Time Is Now, presentando delle collezioni sostenibili. Abbiamo collaborato con l'eco designer Tiziano Guardini. Si fanno un sacco di progetti green anche con i ragazzi di grafica e di interior. Quindi stiamo già lavorando. Complimenti, grazie. Chiamiamo Drio! Chiamiamo subito Drio perché no, non possiamo non raccogliere un'impressione anche da uno dei registi più famosi di Radio Wombat, il dottor Io. Abbeveratevi! Ciao a tutti! Com'è questa... Sono tante emozioni oggi. Prima fra tutte ovviamente la regia mobile, seconda fra tutte lo sciopero. Secondo fra tutte vedere che questo movimento regge dopo ormai più di 6 mesi, no? Che c'è stato il primo il primo appuntamento di globale di Friday for Future. Adesso vedere che in piazza c'è lo stesso numero, se non di più, di partecipanti del primo appuntamento, quindi siamo già arrivati alla terza manifestazione globale, vedere insomma che regge. E si stanno delineando anche i temi fondamentali, l'attacco appunto a quelli che sono realmente gli attacchi al pianeta e al clima e all'ambiente, quindi la critica al sistema economico attuale, la critica all'estrattivismo, al capitalismo estrattivista e insomma si vede e si leggono un sacco di cartelli dove si nota che c'è una certa coscienza, si sta formando anche fra le giovani generazioni, no? Quindi sono molto soddisfatto. Bene, bene, infatti come dicevamo prima c'è una certa coscienza che la lotta e che il problema sia sistemico e che quindi ovviamente la manifestazione è una denuncia di un problema, ma che poi quando vai a analizzare ci sono insomma intorno a noi nel territorio poi anche nostro fiorentino e della Piana ci sono tanti esempi ovviamente di un modello che ancora tende a riproporre certi pattern e a girare in un loop che non ha dimostrato non portare in realtà un miglioramento né della qualità di vita né della qualità del pianeta Terra. E adesso invece sembra che una posizione politica, no, lo stiano prendendo, e nonostante ciò la partecipazione è ancora grossa. Poi non ci illudiamo sicuramente che tutta la gente qui sia consapevole di quelle che sono poi le declinazioni politiche di tutto ciò, però speriamo che continuando imperterriti ogni venerdì a manifestare piano piano anche le istituzioni recepiscano davvero, a parte fare, no, i carusellini o uscire a salutare. È bello vedere anche appunto come il movimento stia rispondendo alle istituzioni che appunto almeno qui a Firenze con Nardella insomma hanno provato in qualche modo di nuovo a cavalcare in qualche modo, o comunque far vedere che sono vicini alla protesta, che sono partecipi a questo movimento, annunciando l'ascesa in piazza da parte del sindaco e tutto. E invece diciamo è bello vedere anche la risposta del movimento, che un po' è stata quella di dire a Nardella: no, guarda, oggi scioperiamo noi, protestiamo noi, te anziché scioperare stai in ufficio a lavorare e a cercare di risolvere o perlomeno nel locale pensare a quelle che sono le soluzioni al problema climatico e ambientale. Per esempio appunto poi rientriamo sul discorso dell'aeroporto e dell'inceneritore, che sono un po' diciamo a livello territoriale le lotte su cui siamo insomma da anni impegnati e che portiamo avanti. Dici benissimo, Drio, dici benissimo. Infatti è stata la linea, poi forse il cambiamento grosso del discorso di Greta. Intanto salutiamo il tecnico Coso, che ci ha veramente aiutato. E stavo a dire che una dei grossi, forse delle grosse novità è stato proprio nel tipo di discorso impostato, che non era un discorso solo di richiamo della popolazione e dei giovani a manifestare, quindi con una visione lungimirante, per cui i giovani di adesso sono coloro che governeranno queste cose in un futuro molto prossimo, ma anche proprio nella posizione netta presa nei confronti dei politici. Ovvero voi non siete stati in grado di evitare tutto ciò, quindi la nostra interlocuzione con voi, cioè potete provare a fare il possibile per salvare i danni che avete fatto, ma insomma non ci illudete che dobbiamo ridelegarvi a risolvere queste cose, perché non siamo stupidi, non siamo coglioni, siamo giovani e abbiamo molte più energie di chiunque altro per cambiare le cose. E infatti si sente questa energia. Noi scongiuriamo la pioggia, perché sennò dobbiamo fare una fuga con la non ce l'abbiamo ancora, l'ombrello sulla carriola non c'è, quindi. Infatti facciamo un appello, un bel acquisto di un'ombrella vombata da mettere sulla carriola. Oggi è venerdì, questo continuerà tutto il giorno, non mi ricordo gli appuntamenti pomeridiani a parte il mercato in Piazza Tasso, perché diciamo è un po' di parte. Non credo che saremo in Piazza Tasso oggi pomeriggio con la diretta streaming. No, adesso siamo in diretta. Ora siamo in diretta. Eh sì, attenzione. Allora, dovremmo essere ancora in diretta. Non ne devo fare due o tre di prove. È andata benissimo la prima. Abbiamo scoperto che basta dirgli che stiamo registrando e che poi tagliamo. Venuta perfetta, Drio. Vedi che funziona così. È tutto nella nostra mente. Ciao, come ti chiami? Angie, molto lieta. Io sono Camicia. Ciao, Camicia. Molto piacere. Cosa ci vuoi dire? Principalmente siamo interessati a conoscere le tue impressioni, che immagino siano ovviamente positive di questa giornata, ma quali sono i consigli che puoi dare a tutti questi ragazzi giovani? E poi secondo te, che cosa stai facendo per già cambiare questo modello nel tuo piccolo? Ok, grazie. Allora, io certo ritengo estremamente positivo questo aspetto di attenzione, aggregazione e movimento che ha messo in moto un sacco di gente a livello globale, anche se devo dire una cosa. Una cosa è la Terra, nel senso che la Terra è un essere intelligente, vivente, e sta facendo un passaggio di era, per cui i cambiamenti climatici sono assolutamente ineludibili e ce li dovremo prendere, non solo climatici. Penso che avremo anche altri cambiamenti, perché se prendi un essere così grande che si dà una scrollata di spalle, probabilmente dal nostro punto di vista potrebbe sembrare un evento catastrofico, ma a mio avviso non è dovuto tanto all'inquinamento, anche se ovviamente l'inquinamento va combattuto, va assolutamente cambiato il nostro modo di relazionarci con l'ambiente, con gli esseri umani, con gli animali, con tutto quanto, perché è importante aprire più alti livelli di coscienza, e questo è il mio lavoro, fra l'altro, è quello che faccio, è la mia mission, vision, lavoro, tutto quanto, ho riunito tutto in uno in maniera che posso dedicargli tutta la vita. E quindi comprendere questa distinzione e quindi focalizzare, secondo me è molto importante, focalizzare su ciò che noi possiamo cambiare. Noi possiamo prepararci ai cambiamenti che la Terra sta facendo, noi possiamo aiutare altri a risvegliarsi, risvegliare le coscienze e crescere. Questo è ciò a cui noi siamo chiamati, mentre non possiamo gestire il pianeta. Fortunatamente, devo dire, noi non siamo i gestori del pianeta, il pianeta è già sulla sua strada, sa benissimo cosa fare, non lo possiamo distruggere, questa è la buona notizia. E quindi però invito veramente tutti a, se volete io vengo anche in trasmissione da voi, possiamo prendere delle iniziative nelle scuole, nelle università, nelle aziende, dove credete. Possiamo mettere in atto una trasformazione di consapevolezza e anche di azione, perché possiamo smettere di essere clienti, possiamo smettere di essere clienti di chi in realtà ha ridotto l'umanità in queste condizioni, perché ci vede come clienti. Noi abbiamo quel grande potere, noi siamo clienti attraverso l'acquisto di cibo, siamo clienti attraverso l'acquisto di dispositivi elettronici che non vanno demonizzati, perché grazie a questi noi stiamo parlando, ma non dobbiamo magari neanche diventare quelli che comprano uno smartphone ogni 7 mesi nuovo, perché devono assolutamente avere l'ultimo modello e quindi essere annebbiati da questo. Quindi ci sono una gran quantità di scelte che possiamo fare. Amare noi stessi, imparare ad aver cura di noi, della nostra crescita e degli altri, attraverso proprio lo sviluppo di più alti livelli di coscienza. Ci sono gli strumenti per fare questo praticamente autonomamente. Altra bella notizia. E io, Camicia, ti ringrazio a questo punto. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie, bellissimo, ci ha fatto un quadro molto bello e per fortuna ottimista, perché ovviamente in quanto si parla di questi argomenti c'è sempre ovviamente chi dice noi abbiamo causato tutti i problemi, ci estingueremo, e anche lì in realtà si potrebbe dire che la Terra si autoregola e quindi che anche l'estinzione alla fine non è un problema per il pianeta Terra se ci estinguiamo noi. Claro che se poi andiamo a analizzare, no, tutto il numero di specie estinte eccetera, che sicuramente è per causa di un nostro impatto un po' troppo accelerato. Mi ricordo una prima grande estinzione antropica documentata fu l'estinzione del dodo. Il dodo nel vicino alle isole Mauritius, quelle parti lì, con l'arrivo dei coloni che se li mangiarono tutti in 20, 30 anni, 40 anni, perché erano dei polli enormi, facevano delle uova enormi, quindi figurati che arrosti si sono fatti. Quindi insomma le estinzioni per causa umana ci sono, e quindi secondo te, per farti un'ultima domanda, se vogliamo proprio definire un rischio, qual è il rischio per noi come esseri umani nel continuare ora senza far niente o senza crescere dal punto di vista della consapevolezza? Che rischio andiamo incontro? Il rischio per noi esseri umani è in questo senso. Intanto non significa che se ci sono persone che agiscono in maniera sbagliata, gli altri devono subire perché non hanno il potere. Ognuno si deve prendere la responsabilità, pur senza diventare un martire, perché non ha senso, se no poi uno ti dice guarda quante belle parole, l'hanno fatto fuori dopo 3 giorni e non porta più alcun insegnamento. Quindi dobbiamo liberarci dal senso del martirio, anche possibilmente dall'odio e dalla rabbia perché ci avvelenano, ma essere forti e determinati nel volere veramente cambiare le cose, perché ognuno può fare la sua parte. Per esempio, come si diceva prima, in un mondo dove il mercato guida la politica, guida ogni scelta perché tutti sono clienti di quei 4 gatti che hanno le ricchezze economiche, al di là del fatto che io ho sperimentato direttamente che il karma esiste e quindi ci sarà di sicuro un effetto di ritorno su questo, ma questo non significa che dobbiamo stare qui a fare niente, altrimenti diventiamo complici. Questo è il rischio che noi corriamo. L'altro rischio che corriamo è che nell'odio ovviamente peggioriamo noi, cioè involviamo anziché evolvere. Noi dobbiamo muoverci per l'evoluzione, quindi distinguere l'assertività, un potere positivo dall'odio. Non dobbiamo odiare le persone che si comportano male, dobbiamo semplicemente noi lavorare e muoverci portando nuovi modelli, nuove soluzioni. Ti ho risposto? Assolutamente sì, grazie ancora. Grazie. E nel frattempo notiamo che il corteo in realtà è finito, quindi va ammesso che rispetto a stamattina quando è partito, insomma, tanti studenti se ne sono andati a pranzo. È la fame che vince su tutto. E borda tutti a McDonald's. Esatto, speriamo che lo occupino almeno, facciano un sit-in dal McDonald's. Esproprio proletario, mi si faceva un tempo. No, a proposito di fame e di pranzo, dovrebbe esserci il banchino del pranzo organizzato da Mondeggi, che hanno cucinato un sacco di cose buone, genuine, clandestine, saporite, e quindi non so se è già partito, comunque c'è il pranzo in piazza di Mondeggi. Oh, bene, bene, speriamo che arrivino da noi. Cambio di voce. Potremmo andare davvero a McDonald's, non solo, a intervistare, a vedere quanti di quelli con i cartelli sono lì adesso, e anche a brontolare e a intervistare chi sta tranquillamente mangiando. Sì, effettivamente il corteo si è un po' disperso, è già dalle piazze precedenti. Ho visto un sacco di persone che fuoriuscivano e andavano chissà verso casa, un sacco di studenti che sono con te. All'uscita di scuola, dai, questa è l'ora dell'uscita da scuola. Sì. Bene, no, comunque veramente tante persone, un sacco di facce nuove, giovani e meno giovani, molto eterogeneo, sembra di capire questa situazione. Sì, non so, hai fatto una domanda? No. Ah, non l'ho sentito. No, dicevo, è una situazione molto eterogenea, ecco, Sì, eterogenea orizzontalmente e verticalmente, nel senso che ci sono da proprio bambini piccolissimi con i loro genitori e con i loro cartelli, e abbiamo intervistato anche vari anziani e sembrano tutti consapevoli che siamo sulla stessa barca, quindi. E poi ovviamente anche eterogenea, perché ci sono, insomma, rappresentati dagli studenti delle medie, gli studenti dei licei, gli studenti dell'università, ci sono i comitati di difesa territoriale, ci sono i vari movimenti di riappropriazione territoriale o contro le grandi opere, ci sono da genuino clandestino, Notav, Jerome Laronz. Un inceneritore, fra l'altro, sì, ho saputo anche che a un certo punto è comparso anche il sindaco Nardella. Pare che sia comparso il sindaco Nardella e che lo abbiano respinto a vociate dentro casa. Quindi. E ci credo, perché comunque lui sta continuando sulla sua linea, cioè lui, non proprio lui, cioè non solo lui, diciamo l'amministrazione fiorentina, che è più o meno la stessa, con la stessa linea da quasi 20 anni a questa parte, non è che diciamo, a parole sì, sembra solidarizzare, ma nei fatti invece non pare proprio, in quanto ancora stiamo dietro alla questione dell'aeroporto, questione abbastanza urgente, impellente, anche da un punto di vista proprio del territorio, no? Dell'impatto sul territorio, perché non mollano, sono ancora convinti che questo aeroporto serva, ci voglia, e quindi sembrano decisi a continuare questa battaglia. Ciao, abbiamo una partecipante con una ciambella intorno al collo, perché? Perché secondo me siamo in una situazione dove i governi, diversi governi, ci stanno creando una paura dell'immigrazione in una maniera allucinante, dove, cioè, spacciamo tutte le armi per i porti e invece per la gente li chiudiamo, è impossibile, cioè non si può. Ma è il giorno giusto oggi di parlare di queste cose? Tutti i giorni sono i giorni giusti, direi, di parlare di queste cose, perché appunto, cioè, viviamo in una falsa, in una paura falsa creata e davanti a un problema, a una catastrofe molto più grande che continuiamo ad ignorare in una certa, sì, in una certa misura. Ti sembrano sufficienti le misure che il governo dice di voler prendere? Contro il cambio climatico? Contro il cambio climatico, ma in particolare sulla questione dei migranti, questo decreto sicurezza, che tanto dicono che lo vogliono destrutturare o almeno modificare? Non mi sembrano sufficienti, e penso che non è neanche, cioè non dipende neanche in realtà dal governo soltanto italiano, no? È un problema un po' più vasto, dove, cioè, l'Europa in totale si sta chiudendo, si chiude sempre di più, ignora proprio le ondate di migrazioni che verranno in ogni caso, quindi penso che dobbiamo trovare altre soluzioni, sì. E sul cambiamento climatico? Fa cagare la politica, non ne dobbiamo parlare, penso, no? Cioè, come? Parliamone, perché fa cagare? Perché abbiamo delle sovvenzioni per delle cose assurde, no? Io di recente adesso ho sentito che sul biglietto dell'aereo non si paga nemmeno l'IVA. Cioè, è una, no? Sul biglietto del treno paghiamo il 20% delle tasse in più, e invece sul biglietto dell'aereo non si paga nulla. Quindi, cioè, già questo mi sembra un dettaglio che però è insopportabile. Cioè, non si può andare avanti così. Tu pensa che la Francia, che è un po' il paese in Europa che sta cercando di riprendere le fila della questione ecologica, della questione del cambiamento climatico, ha aumentato le tasse sugli aerei di circa 2 euro a tratta, che vanno a... quindi, che ne pensi? Va bene, 2 euro, forse meglio che niente, no? Cioè, io personalmente penso anche che non è che dobbiamo impedire la gente... Cioè, non si può risolvere soltanto sui costi, no? Perché così alla fine la gente più povera non può più spostarsi, e invece i ricchi continuano a farlo così. Poi la Francia è un caso un po' particolare, perché usano il nucleare anche, cioè dal punto di vista energetico non so se serve proprio la Francia da prendere come esempio, ma per ora tutte le misure per in qualche modo ribilanciare i costi incredibili di muoversi in treno e nei mezzi pubblici rispetto all'aereo sono da favorire. Comunque bisogna, penso, cambiare a tutti i punti. Esatto, dai, un ultimo messaggio da lanciare sulle frequenze del Wombat. Ragazzi, dobbiamo in tutto questo non dimenticarci di distruggere il patriarcato proprio alle sue radici. Cioè, io di base sono più femminista che ambientalista, penso che vanno tutte insieme queste cause, ma sì, distruggiamo il patriarcato e salviamo il clima magari. Brava, è così, salviamo il clima, distruggiamo il patriarcato, le politiche sull'immigrazione, avete sentito, veramente è molto molto eterogeneo, ma anche perché giustamente siamo nell'era della globalizzazione e quindi non esiste una cosa disconnessa dall'altra, no, è tutto così, una grande catena e noi sicuramente vogliamo buttare giù. E poi volevo anche trovare quel fil rouge su migranti e cambiamento climatico, no, adesso si parla proprio di migranti climatici. Quindi in realtà è un cerchio che si chiude, nel senso, col modello di estrattivismo che abbiamo esportato in tutto il mondo, con cui abbiamo creato schiavi, con cui abbiamo creato povertà e con cui abbiamo creato devastazione, ovviamente poi, no? È lo stesso modello che poi ha causato quello che sono le grosse migrazioni dei più disperati, ovviamente, da parte chi vuole migrare perché vuole cercare fortuna altrove. Ma tanti migrano praticamente perché non hanno altre possibilità e infatti vengono adesso chiamati migrazioni climatiche, anche un po' però a paraculata, bisogna dirlo, perché può far pensare che ci sono i cambiamenti climatici, allora ci sono migranti che a causa dei cambiamenti climatici, però sembra quasi a voler togliere responsabilità, in realtà a chi poi ha causato questi cambiamenti climatici, che fondamentalmente è il modello estrattivista, ripetiamolo, che sia nell'agribusiness e quindi le monoculture di rose, di soia, di mais dall'Africa al Sud America, di qualunque tipo di biomassa che ci sia nel mondo, all'estrattivismo dei minerali, all'estrattivismo dal punto di vista dello sfruttamento della bellezza di una città per svenderlo a una turistificazione senza alcun tipo di logica. Ecco, tutto questo poi inevitabilmente ha causato disagio a livello globale. Sì, direi ben più che disagio, cioè quello che questa giornata, come le altre, cerca di far capire, che questo disagio è a un livello estremo, siamo praticamente alla fine, ecco. E, proprio, vabbè, grandi quesiti ci sono dal mio punto di vista, perché pensiamo alla fine del mondo, ma non pensiamo alla fine di questo sistema, ad esempio. Ci immaginiamo la fine del mondo, ma non ci immaginiamo un'alternativa, o almeno non sappiamo proporre un'alternativa a questo sistema che ci sta devastando sia dentro che fuori. E, però, ecco, magari questo qua è il punto di partenza, perché c'è tanta voglia, mi sembra, di stare in piazza, di partecipare, di essere dentro alle questioni, che poi sono tutte connesse, come diceva il nostro buon Camicia, che oggi è sceso in città. No, oggi sono molto, molto emozionato, sono molto emozionato. Vorrei fare la prova per capire se si sente la musica bene, per far sentire un po' il gruppo dei percussionisti qua, favolosi. Ma ho paura che dovremo portarci dietro un panoramico, in modo da poter far ascoltare quando vogliamo anche i suoni. Ricordiamoci la prossima volta, portarci anche il panoramico. Così al momento uno alza il panoramico e si fa sentire. Scusate, sono appunti, almeno non me lo scordo, perché li stiamo mandando in diretta. No, ma come dici te, è bellissimo Briccovaldo, ma ricordiamoci, un mondo deve finire. Il mondo del vecchio modello, il mondo del capitalismo deve finire. Quindi quel mondo deve finire, quel sistema lì deve finire. E francamente, dai, se si fa un piccolo sforzo e apriamo gli occhi, non c'è neanche troppo da immaginare quello che sarà, perché c'è anche già chi sta proponendo, attuando il modello alternativo. Ancora lo chiamiamo alternativo, ma speriamo, chi lo sa, tra un secolo, tra 50 anni, tra 20 anni sia il modello predominante. Sarà dura, ma si comincia dal basso e dai pochi. Ti riferisci agli zapatisti, ad esempio? Per esempio, sì, qualunque movimento ai Sem Terras, ma anche qua semplicemente qua in Italia e qua in Toscana, insomma, piccole realtà che oltre a immaginarselo provano con tutte le loro contraddizioni, ma quelle sono umane, provano ovviamente a svegliarsi la mattina e a porsi questi quesiti e a dare delle risposte, cominciando dal loro stile di vita personale. E quindi, insomma, dai, c'è speranza e c'è energia, e lo viene dimostrato in tutto il mondo, dalle manifestazioni che ci sono state a partire da venerdì scorso. Quindi speriamo che non sia un new no global movement, che forse non è riuscita a scalfire davvero poi le intenzioni politiche che c'erano dietro di 10 anni fa e passa. Però forse questa costanza, determinazione, e soprattutto il fatto che fin da più piccoli vengono a denunciare questi problemi, probabilmente, ecco, c'è una maggior malleabilità, ma anche una maggior determinazione e durezza nei confronti dei piani alti decisionali. E qua intanto ascoltiamoci un po' di musica, vai. Senti, che ci dici? Che bello, cioè, ci siamo un po' persi fra tutti, ma c'è una band di ragazzi giovanissimi che stanno spaccando tutto e ci guidano in questa lotta infinita contro chi non vuole un cambiamento radicale di questo modo di vivere, che non ci permetterà di vivere in un pianeta dove tutti stiamo bene. Quindi viva la banda, viva noi che siamo ad ascoltarla, e viva tutti. Evviva i cambiamenti quando sono reali e non solo quando sono declamati. da certi altri movimenti politici. Alle ore 13 in piazza Brunelleschi, facciamo in Brunelleschi pranzo, diccelo te, cosa ci sarà da mangiare, lo sai? Pranzo fatto da quelli, dai ragazzi e le ragazze di Mondeggi, roba buona, genuina e clandestina, che i cui prodotti trovate anche al mercato in piazza Tasso di genuino clandestino della comunità Jerome Laronze. Oggi pomeriggio e tutti i venerdì dell'anno in piazza Tasso, e il martedì all'isolotto, alla biblioteca Nova, in via Canova, di fronte alla biblioteca. Esatto, c'è giustamente chi denuncia e che dice basta con questo modello, c'è chi mentre lo denuncia fa dei sacrifici, alla fine ha ribaltato il proprio modo di vivere, anche scontrandosi ovviamente con chi non voleva farglielo fare. C'è di tutto, siamo tutti comunque qua in piazza. Ciao. Che succede? Che sta succedendo qua oggi? Perché rispetto a qualche manifestazione fa, adesso c'è anche proprio una indicazione, davvero un discorso politico, e quindi un discorso proprio su che cosa bisogna fare a partire dai territori qua in Toscana per cambiare il modello, no? Quindi sta assumendo spessore tutta questa protesta. Beh, sì, credo che soprattutto anche negli sviluppi di quest'estate, no? Anche se questo movimento si muove anche molto sui social, molto su queste dinamiche qua, si sia posto, no, molto il problema di ok, cambiamento climatico, ma chi sono i responsabili, no? Quindi c'è un tentativo di spostare questa cosa sul capitalismo green, ma dall'altra parte c'è anche una buona risposta, mi sembra, da parte sia dei Friday for Future e anche della crescita dei Friday for Future, dove adesso comunque ci sono numerose realtà anche del territorio, e quindi che stanno portando i contenuti appunto alla scala locale e alla scala globale. Quindi mi sembra che gli slogan anticapitalista e gli slogan sull'aeroporto rendano bene la direzione buona che ha preso questa, cioè, diciamo, il fallito tentativo di spostarla su una versione riformista della questione. Esatto. Te eri lungo il corteo, immagino, oggi o no? Ero nel corteo, non lo sono riuscito a fare tutto, però... Hai visto in particolare qualche cartello, qualche cosa che ti ha fatto sobbalzare? Ma sobbalzare no, dai, erano tutti molto carini, molto spontanei, si vede che sono fatti proprio con quello che c'è in casa, no? Sono mobilitazioni molto sincere, no? Anche molto giovanili, e quindi anche molto belle in questo senso. Ho notato che sì, ci sono stati, insomma, si cominciano a vedere, questa volta era permesso non portare le bandiere, ma comunque appunto far capire se uno è di un comitato per il parco della Piana o se uno è un notav, è stato mostrato questo giro. Sì, c'è stato un lungo dibattito a quanto so, anche se non ho fatto parte dell'assemblea organizzativa, però so che c'è stato un grande dibattito su questo, su quali simboli di chi potevano essere portati in manifestazione, e sicuramente appunto è passata la linea di non portare simboli di partiti o cose istituzionalmente riconosciute, ma di poter portare tutto quello che sono organizzazioni di base, forme auto-organizzate legate al territorio e alle lotte climatiche nel vario senso. Grazie, scusa se ti ho abbandonato, ma... E qua intanto rispunta il sole, il 27S, Santissima Annunziata. Hai detto prima una cosa molto interessante ovviamente sul capitalismo e sui tentativi che lo stesso capitalismo in questi ultimi 10-20 anni ha messo in marcia per accaparrarsi anche questo nuovo discorso del green. Da lì è nato infatti tutta la green economy. No, sono riusciti, il capitalismo stesso è riuscito a trasformare in profitto anche il danno che stiamo facendo a livello mondiale, e mi sembra che questo sia percepito, perché ho visto molti cartelli proprio di denuncia contro l'agribusiness, contro la grossa produzione alimentare di carne, di verdure, qualunque essa sia, perché tanto sappiamo bene che dai campi di soia agli allevamenti di polli intensivi, al di là del livello più o meno di consapevolezza che possono avere i polli rispetto alle piante, ma comunque hanno tutte lo stesso effetto, ecco. E mi sembra che è un messaggio che stia arrivando, e speriamo che piano piano questi ragazzi, guardandosi, aprendo gli occhi, facciano il passo successivo, continuando a denunciare quello che succede, cominciano ad andare a esplorare le realtà che hanno sicuramente bisogno di energie più fresche, energie nuove per opporsi al vecchio sistema e per imporre alla fine il nuovo, perché alla fine non è un'imposizione violenta, questo è sicuro, ma è un'imposizione, perché quando uno si vuole salvare la vita di un pianeta, a un certo punto certe decisioni dovrà prenderle. No, non sei d'accordo, Briccovaldo? Sono d'accordo, è l'ora di prendere la decisione di andare a mangiare, fra l'altro, perché il corteo si sta spostando. E che facciamo? Mandiamo un po' di musica? Il pranzo è in Brunelleschi, sì, effettivamente, quindi chiunque sia affamato si rechi di corsa, perché le cibarie di genere clandestino sono buonissime e quindi finiscono in fretta. E noi, visto che andiamo a mangiare e poi non ci sarà più la regia mobile, direi che possiamo anche salutare, mi sa, perché tanto se cominciamo a parlare mentre mangiamo è finita. E dai, allora alla prossima diretta da piazze, case di amici, manifestazioni, si potrà fare un po' ovunque questa cosa, quindi viva Wombat, viva Street Wombat.